Europa 24. E buongiorno da Anna Migliorati, apriamo dunque la nostra nuova finestra sull'Europa di oggi. Un accordo a portata di mano, così ieri si era detta ottimista il capo della diplomazia europea Catherine Ashton all'avvio dell'ultimo round di negoziati sponsorizzati dall'Unione Europea tra il premier serbo e kosovaro, ma nella notte invece ha dovuto arrendersi ed è stata fumata nera. Allora sentiamo Alberto Negri. All'ingresso di Mitrovica, all'enclave serba in Kosovo, si intravede un cartello stradale che indica l'ingresso di Titova Mitrovica. Era questa una delle tante città dedicate al maresciallo Tito, il fondatore di una Jugoslavia che non c'è più. Eppure è proprio da questa città, attraversata dal fiume Ibar, che i serbi e kosovari possono ricominciare un'altra storia dopo le devastanti guerre balcaniche e il conflitto del 99 con l'intervento della NATO contro Milosevic. I negoziati tra il premier serbo Ivica Dačić e quello kosovaro Hašim Tači si sono conclusi ieri a Bruxelles senza alcun accordo. Ma questo non è un fallimento della trattativa. Un'intesa non solo è possibile, ma in un certo senso obbligatoria, soprattutto per la Serbia. Il governo di Belgrado è sotto pressione da parte dei gruppi nazionalisti che hanno contribuito alla vittoria elettorale del partito progressista, ma allo stesso tempo deve risolvere la questione entro giugno, quando si deciderà sulla data di avvio dei negoziati di adesione tra la Serbia e l'Unione Europea. I serbi, insomma, devono decidere se continuare a difendere strenuamente l'autonomia delle loro enclave in Kosovo e l'Europa. Dopo una generazione di guerre sanguinose, questa sarà la vera svolta dei Balcani. Il programma presentato da Cipro per il risanamento dei conti prevede un aggiustamento fiscale ben ritmato e riforme strutturali, anche se restano sfide significative. Una sostanziale promozione invece è quella di oggi del commissario europeo Olli Rehn, affiancato dal direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Il piano è alla base del memorandum d'intesa necessario per ottenere gli aiuti, ma Unione Europea e Fondo Monetario, conclude la nota congiunta, sono a fianco del popolo cipriota per aiutarlo a ripristinare la stabilità finanziaria, la sostenibilità di bilancio e la crescita. Saranno però necessarie misure pari al 4,5% del PIL di Cipro per raggiungere l'obiettivo nel 2018. E restando all'economia, continua a scendere l'inflazione nell'eurozona. Marzo è calata dall'1,7%, dall'1,8% di febbraio, così la stima flash diffusa da Eurostat. Guardando le diverse componenti, alimentari, alcol e tabacco sono quelle con l'impatto maggiore. Andiamo a Napoli ora, perché potrebbe essere l'Europa a finanziare in gran parte la ricostruzione della città della scienza, andata in fumo, ricorderete, a Bagnoli. E allora in visita questa mattina è arrivato il commissario europeo per le politiche regionali, Hahn. Sentiamo Carmelo Prestisimone. Sì, è terminata la visita di Johan Hahn, il commissario europeo per le politiche regionali, giunto alle 11 in punto qui a Città della Scienza, dove ci troviamo. Hahn ha subito fatto visita all'area dove c'era lo Science Center, ai 10.000 metri quadrati bruciati dall'incendio doloso del 4 marzo scorso. Si è riunito con il governatore Caldoro, con il sindaco De Magistris e con il presidente di Fondazione Idis Silvestrini sui fondi che saranno stanziati per la ricostruzione di Città della Scienza. Noi lo abbiamo intervistato in esclusiva, ha detto Hahn, sono venuto, ecco queste le sue parole, sono venuto per la prima volta qui a Città della Scienza, sono naturalmente molto rammaricato, dispiaciuto, deluso per quanto successo, spero che Città della Scienza verrà ricostruita quanto prima. Sulla questione delocalizzazione, perché si è parlato di Bagnoli che potrebbe di Città della Scienza che potrebbe nascere, rinascere in un luogo diverso da dove era prima, ha detto dobbiamo naturalmente maturare la decisione tutti insieme, però l'intenzione è quella di restare, di far rimanere Città della Scienza a Bagnoli, non necessariamente nel luogo dove era prima. È tutto, a voi. E grazie a Carmelo Prestisimone. Sono Federico Taddia e oggi vi presento un concorso promosso dal Parlamento europeo. Credete nella libertà, nella solidarietà e nell'uguaglianza di genere? Allora avete tutte le caratteristiche per sentirvi cittadini europei e potete dimostrarlo mettendoci la faccia e sperando così di vincere un viaggio a Bruxelles. Per fornire gli strumenti necessari ad arrivare preparati alle elezioni del 2014, il Parlamento europeo ha infatti lanciato un gioco online sulla propria pagina Facebook. i cittadini che caricheranno tramite un'applicazione la propria foto profilo e risponderanno a una semplice domanda potranno vincere un viaggio presso la sede delle istituzioni europee, oltre a rivedere la propria immagine esposta su un pannello, il cosiddetto Citizen Wall, all'interno della stazione ferroviaria di Bruxelles. Tutte le informazioni potete trovarle all'indirizzo facebook.com/European Parliament. E potete ritrovarle questo e molto altro sul nostro sito www.radio24.it. Se volete scriverci europa@radio24.it. Ancora un saluto da Anna Migliorati. L'Europa vi aspetta ancora, vi ricordo, dopo GR24 delle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.